Allora, dovremmo nuovamente essere in diretta dal Forte Prenestino, seconda parte di interviste di questa giornata, insomma, che parte questo pomeriggio, ma sarà molto lunga, anzi durerà tutta la notte, proprio dal Forte. Kenny Arcana poco fa, e adesso siamo in compagnia dei Gente Strana Posse, che faranno un po' così compagnia alla francese, alla marsigliese, durante il concerto e anche successivamente. Io niente, lascio palla, microfoni, dovremmo insomma, prima è andata bene, dovrebbe andare bene anche questa seconda parte. Bene, dopo Kenny Arcana noi parliamo con, appunto, come hai detto tu, con Gente Strana Posse, due gruppi che stanno benissimo insieme, quindi io comincerei con una domanda di prassi: com'è che il vostro gruppo si è formato e perché noi diciamo che state proprio bene con questo gruppo? State bene anche da soli, però le cose che ci sono in comune, una città mediterranea come quella di Palermo, contraddizioni, povertà troppa, ricchezza troppa e molte strade vive comunque. E allora strada, lavoro su strada, ragazzini, operatori, compagni. Sì, penso che hai centrato già diverse tag, come si chiamano. Allora, intanto un saluto a tutti e a tutte. Allora, come si è formato il gruppo? Il gruppo si è formato nel 2004 esattamente, dentro l'occupazione di Palazzo Bonagia, lo Sparo, il collettivo Sparo a Piazza Maggiore. Un'esperienza che per noi è stata di formazione e non solo, fondamentale. A me personalmente ha proprio cambiato la vita e ha aperto tante prospettive proprio di ragionamento collettivo. Ero un ragazzetto, adesso ho 30 anni, dico, non sono vecchio però. Abbiamo cominciato lì per gioco, molto influenzati chiaramente da quella che è la storia delle posse in Italia, da tutti i vari cattivi maestri che ci sono stati. Per fortuna. Per fortuna, bisogna riproporli costantemente. Abbiamo cominciato a rappare in dialetto, sulle version, un po' in stile giamaicano, parlando proprio delle storie del quartiere. Abbiamo visto una presa di un'efficacia incredibile dentro quel quartiere. Si era creata una situazione bellissima, sia coi bambini che coi grandi, rendendoci conto sulla nostra pelle di quanto potente sia il mezzo comunicativo musicale. Questo abbinato a una pratica politica quotidiana diventa, secondo noi, un elemento vincente di lotta dentro i quartieri popolari. Da lì siamo abbastanza cresciuti, vissuto diverse esperienze, e questo lavoro si è allargato a tanti altri quartieri. Personalmente continuo a fare dei laboratori di rap dentro le scuole allo Zen 2 piuttosto che in altri quartieri del centro storico, con diversi progetti. E poi musicalmente c'è stata questa evoluzione negli ultimi 2-3 anni che ha fatto allargare la posse, perché diciamo che dopo un tot ci siamo resi conto che facevamo anche musica e quindi volevamo dare anche il giusto tributo alla parte musicale che avevamo curato molto poco precedentemente, non avendo avuto mai un DJ, un producer fisso. Qualsiasi cosa trovavamo, l'importante era il messaggio. Rimane quella la costante, però certo, se riusciamo a renderlo più gradevole musicalmente, ci divertiamo anche di più con i musicisti. Se stiamo bene sul palco con Kenny, penso di sì. Insomma, nelle quattro date, compresa queste di stasera, le uniche quattro date che ha fatto in Italia, tre le ha fatte con noi e siamo orgogliosi di questa cosa. E credo che ci siano tanti punti in comune, l'hai detto prima: Marsiglia e Palermo, capitale. La gentrificazione, il fatto che i poveri stanno al centro storico, non è la periferia, non sta solo fuori, ma sta anche dentro. Esatto, tocchi una cosa che per noi è stata centrale, una battaglia che abbiamo cominciato anche ai tempi con lo Sparo, con un lavoro che ha messo in rete diverse realtà, collettivi, che era il progetto C'era una volta Palermo, partendo proprio dal concetto di stop gentrification, rendendosi conto, seguendo sia il comitato di lotta per la casa, ma vedendo proprio quotidianamente come anche tramite la festa, il concerto fatto in diversi quartieri, dal centro storico allo Zen 2, che è estrema periferia, volutamente non collegata col centro, Poi mettevi dentro, oltre a gente strana, mettevi i laboratori fatti coi ragazzini, facevi esibire il corpo di ballo di Piazza Maggiore delle ragazzine, piuttosto che la posse dello Zen 2. E questo creava i genitori che venivano al centro e rincontravano i vecchi parenti rimasti lì, alcuni si erano dovuti spostare. Questo è un grosso lavoro, secondo me, efficace. Con Kenny, fino a ieri, parlavamo di una collaborazione da fare e mi è piaciuto molto il fatto che quando parlavamo di mezzi comunicativi importanti per un lavoro poi politico che sia davvero efficace, oltre alla pratica quotidiana c'è la musica e c'è anche il calcio, che anche a Marsiglia abbiamo visto che ha un po' la stessa presa che ha dappertutto. E noi questo sarà il sesto anno, verremo anche a Roma, ne approfitto per annunciare questa cosa, è il sesto anno che facciamo Mediterraneo Antirazzista, il 4 e il 5 maggio saranno le date dei tornei on the road che si apriranno il 2 e il 3 a Scampia, poi saremo il 4 e il 5 a Roma a Metropolis e poi dal 15 al 20 ci sarà insomma il torneo al Velodromo a Palermo, dove prima ci saranno una serie di tappe in vari quartieri e quindi invitiamo tutti i calciofili e non solo a venire a giocare. È una cosa bellissima perché riusciamo a fare una reale rete tra le comunità di immigrati piuttosto che le squadre di quartiere, piuttosto che le squadre di compagni, sperimentando poi autogestione calcistica e non solo, perché non ci sono arbitri, ed è una cosa che funziona molto, proprio molto molto molto molto forte. Io ricordo una canzone vostra che si è ambientata in un autobus sulle elezioni, con tutto un gioco su chi sale, con la signora che alla fine dice: lei qua chiana, adesso la sinistra. Chi sale, l'importante è che non sale il controllore, che insomma è rimasta proprio, cioè ci ha colpito tutte e tutti in maniera particolare, perché insomma è una condizione che viviamo molto. Però a parte questa cosa, l'evoluzione vostra musicale è apprezzabilissima. Comunque, detto tra noi, anche i brani solo con le basi, cioè sono, non c'era problema, ecco, si sentivano benissimo. Però i temi sono sempre gli stessi, però io ho notato che c'è un tentativo di parlare anche più al cuore, meno slogan e più cose più un vissuto interno che ci sta, che non è una cosa intimista. E allora mi piaceva approfondirla con voi, e magari se anche la ragazza accanto dice due parole ci farebbe piacerissimo, però non è obbligata, ecco. Vabbè, i testi li scrive lui, quindi proprio questo è bene che però mi fa piacere che lo abbiate notato, perché veramente questa cioè l'evoluzione di Gente Strana Posse non è stata solo un'evoluzione musicale, cioè l'evoluzione è stata un'evoluzione che riguarda la capacità di comunicare allargata a tutti, a 360 gradi, quindi non solo attraverso la musica riuscire a essere più di impatto, ma anche attraverso i testi. Perché magari ce lo spiega lui e come si è arrivati a questo, magari ce lo spiega lui che è l'autore dei testi. Mi fa piacere anche a me che di questa cosa ve ne siete accorti, perché è un po' uno degli obiettivi che ci eravamo messi personalmente e collettivamente con tutta la posse. Se è vero da un lato che detto tra noi, sottolineiamo detto tra noi, funzionavano anche prima, un po' il gap che notavo era che restava detto tra noi, restava relativo alla nicchia dei compagni, che magari non è il termine adatto, però anche per chi vuole fare musica e sottolineare un messaggio mediante quella, mi rendevo conto che molte volte il concerto diventava... Non dico piatto, ma quasi scontato per quella che riguarda il nostro ambiente. Il punto è che come quando organizziamo i cortei, i scioperi, la pratica quotidiana, vuoi arrivare a quante più persone possibile e far arrivare il messaggio è sia importante musicalmente, sia fondamentale per poi innescare quel famoso ragionamento che ti porta quante più gente possibile a ragionare su quello che poi è la tua pratica quotidiana, la nostra pratica quotidiana. Crediamo che dal punto di vista musicale l'aver allargato e aperto, scardinando ogni tipo di genere e di confine. Non siamo un gruppo reggae, non siamo un gruppo rap, non siamo un gruppo hardcore, non facciamo elettronica, ma tutte e quattro le componenti stiamo provando. Non abbiamo ancora un nostro sound, ma stiamo provando a sperimentarle, ad amalgamarle, sì. E per quanto riguarda i testi è un ragionamento che per me è in continuo work in progress, perché lo faccio su me. Provo disagio quando non riesco a parlare bene con un diciottenne, nonostante magari faccia parte dei collettivi degli studenti medi. E mi capita, cioè sarei ipocrita a non ammetterlo. Evidentemente lo slogan o la frase fatta o la cosa che mette tutti d'accordo non riesce ad avere la stessa presa che poteva avere 10-15 anni fa. Penso alla 99 Posse, quanto è stata formativa con me, ad Assalti Frontali, con me e con tantissimi altri. Oggi anche il mondo musicale è molto cambiato. Anche tanti compagni mi sono trovato a discutere, a sentirmi dire le Posse però non sono più di moda. A me spiace, perché non mi piace vederla come una questione di moda. È come dire che vabbè, allora la lotta è passata, si è fermata agli anni 70, cioè che vuol dire? Io l'ho sempre vista molto come un cordone imprescindibile, quello che facciamo musicalmente, da quello che poi è l'agire politico quotidiano e collettivo, e per cui devo in qualche maniera avere la possibilità di riuscire ad arrivare a tutti. Da ragazzino, per dire, che va soltanto ai rave e che gli piace la cassa dritta, allora gli metti il pezzo un attimino più però parli e lo porti sulle tue tematiche senza rendere una cozzaglia la cosa, a tutti, ai quelli che ci seguono da tempo. Ormai Gente Strana fa 10 anni il prossimo anno, il primo maggio del 2014 saranno 10 anni di Gente Strana. E quindi comunque un minimo di seguito ce lo siamo creati. Allo stesso tempo l'importante va oltre il progetto, è proprio quello che dicevo prima, cercare di arrivare a quanta più gente possibile con quanti più mezzi possibili. Senti, a proposito dei mezzi, non soltanto espressivi, musicali, lirici e quant'altro, ti faccio questa domanda perché alcuni anni fa, forse non te lo ricordi, ti intervistammo, non so a te, comunque qualcuno di voi, a una trasmissione che si occupava di autoproduzioni, no copyright, durante alcune delle notti di Onda Rossa di alcuni anni fa, e già da allora notammo che comunque utilizzavate la rete come sistema di distribuzione della musica. Queste cose adesso, con il dilagare dei social network eccetera eccetera, sicuramente è molto molto cambiata. Però così volevo chiedere a voi com'è il vostro rapporto con la produzione e l'autoproduzione musicale e con i sistemi di distribuzione basati poi fondamentalmente, che ne so, sullo scambio attraverso le piattaforme informatiche, le reti eccetera eccetera, e invece quello con i supporti veri e propri, com'è oggi, com'è cambiato rispetto ad alcuni anni fa? E io personalmente resto legato alle musicassette. Grande, ci sta. Già piango e mi preparo a piangere la scomparsa dei CD, perché proprio mi ricordo che mi raccoglievo i soldi per andare a vedere i testi quando non c'era internet. Mi piaceva proprio il pacchetto. Infatti anche l'autoproduzione di Viaggi di Sabbia, dell'ultimo disco, è stato molto curato anche in forma estetica. Ci teniamo a mettere comunque tutti i testi perché ci piace proprio quel supporto finché c'è. Chiaramente le nuove tecnologie, le piattaforme, le nuove piattaforme, la rete agevola molto l'arrivo del messaggio. Noi abbiamo messo il disco in free download 2 mesi dopo l'uscita, lo abbiamo presentato e quasi subito dopo l'abbiamo messo libero su SoundCloud, anche perché poi in realtà è pure cambiato il livello di sostentamento della produzione, cioè i CD non si vendono più. Già facciamo una grossa fatica ad autoprodurlo, facciamo una fatica enorme ad autopromuoverci, perché ne parlavamo oggi con Shark, non c'è più quella rete di compagni che fanno militanza sonora, diciamo. Sì, ci sono diverse situazioni, in realtà per fortuna resistono i laboratori che faccio, ma che fanno tanti altri di rap, di scrittura creativa, servono anche a questo, a cercare di crescere, diciamo, nuove forze musicali. Però non c'è più quella rete di scambio anche nei live, per cui dobbiamo un attimino cercare senza dubbio di sfruttare al massimo la rete, e lo facciamo poco, per quanto ci riguarda, forse perché troppo attaccati alla vecchia scuola, diciamo. E allo stesso tempo è il girare, è il suonare che ci permette di uscire. Cioè, noi sicuramente non ci campiamo, a stento riprendiamo le spese dalle produzioni che facciamo, però se non facciamo concerti il disco non va da nessuna parte, non abbiamo delle distribuzioni, e quindi, non essendoci mai confrontato con un, uso la parola, mercato musicale vero e proprio, la mia risposta è parziale per quel che riguarda il nostro giro. Io personalmente, dei gruppi che mi piacciono, continuo ad acquistare il CD e onestamente mi importa poco come esce, ok? Se è con Creative Commons, sicuramente lo preferisco, però è una discussione aperta. Mi rendo conto che tanti altri gruppi hanno fatto delle scelte, chi con le major, chi comunque in maniera indipendente, ma sempre trovando dei compromessi. È molto più difficile, tra virgolette, campare di musica, e mi rendo conto, adesso essendo minimo in 9 nella band, quanti soldi se ne vanno anche per le singole ore di sala prove, lo studio di registrazione, la mancanza di strutture reali che ti permettono di suonare bene, i concerti fatti in posti che sono le nostre case, i centri sociali, ma dove per necessità molte volte ci ritroviamo a dover dividerci una cassa monitor in 4, e chiaramente non se ne può fare una colpa ai compagni, e non stiamo lì a sbroccare, però è un dato di fatto che sicuramente a noi da un lato ci fa crescere, dall'altro è fuori discussione che servono quanti più mezzi possibile, servono anche i soldi per riuscire ad andare avanti con un progetto come questo. A me piace moltissimo il discorso sulla parola, perché facendo i laboratori nei quartieri, sia popolari sia un po' più up, in un paese che ha un analfabetismo di ritorno mostruoso, iniziare a ragionare sull'uso delle parole, quindi sul fatto che tu ti esprimi, significa dare voce, come diciamo spesso noi dalla nostra emittente, a chi voce non ne ha, oppure a chi non la o chi non la riesce a fare sentire. L'esperienza dei laboratori di ritorno, il feedback sarà sicuramente positivo, ma che cos'è che la marca di più? Kenny Arcana direbbe la rush. In determinati territori, io cito lo Zen perché è quello che mi riguarda personalmente, ma che è una periferia ricostruita fuori dalla città, sì. È la zona espansione nord, sì. O zona elementi nocivi, come sì, si sentono dire gli abitanti, si dice, collegata con un autobus che c'è, non che c'è, non, fantasma, sì. Che se va fantasma. Bene passa ogni ora e 10. Vabbè, chiaramente è tutto strategicamente voluto questo, e fa parte anche del percorso di gentrification di cui parlavamo prima. E noto tantissima rabbia positiva da parte di ragazzini che vogliono uscire, che non hanno i mezzi, non hanno le possibilità, e si sentono riempiti di paroloni, di etichette, da quella più criminale a quella più ipocrita, passando per la legalità, su cui poi c'è tutto un discorso che nelle canzoni proviamo a trattare, proprio per cercare di informare il più possibile chi ci ascolta sui danni che sta facendo questo concetto, laddove diventa uno stereotipo da applicare, bypassando la consapevolezza dei diritti. Certo. Che in quei quartieri è centrale, è fondamentale. Faccio l'esempio: non puoi prendere per criminale o per diseducato il ragazzino che butta la carta a terra. Faccio l'esempio più banale: se in un quartiere di 26.000 persone chi dovrebbe raccogliere l'immondizia non va e cestini non ce n'è, ci sta che il ragazzino esce da scuola, mangia il cioccolato e lo butta a terra. E però è tutto chiaramente voluto e ricollegato. I laboratori mi danno una gran. Io mi reputo molto fortunato a riuscire ad avere un feed quasi quotidiano con dei ragazzini che scrivono i loro pensieri. È una cosa che io ho inventato da zero, non ho né studiato né minimamente avuto qualcuno. Mi sarebbe piaciuto averlo magari quando andavo a scuola io. Però ci ritroviamo lì, esperimento, cioè io mi siedo con i ragazzini, cosa pensate? Cominciamo a scrivere i pensierini come si facevano all'asilo, veramente nella maniera più minimale. Da lì gli fai vedere che possono fare le rime, da lì gli fai dei piccoli esercizi. Io musicalmente sono una capra, cioè per fortuna che c'ho della gente che sa, che sto provando a studiare, c'è un confronto con dei musicisti che sono molto avanti. Poi quando mi ritrovo a dover insegnare ai ragazzi, cioè sperimento, dico me la cavo perché sono dodicenni, undicenni, quindi improvviso, però dico la cosa che mi fa veramente palpitare è l'autostima. Cioè quando il ragazzino prende coscienza e consapevolezza che fare un pezzo, fare una strofa, dire delle cose che nascono da sotto casa sua, da dentro le quattro mura e che coinvolgono il suo quartiere, non è Maria De Filippi X Factor, perché la musica è diventata reality, è diventato lo schifo che sappiamo tutti. No, ma è diventata poi una gara che deve vincere il bravissima. Migliore, è questa la bravissima. Cosa. Bravissima, è proprio anche chi ci prova, cioè mette questo livello di antagonismo tra ragazzini che fa solo dei danni, cioè abbiamo esempi di ragazzetti che puntano tutto, diventa uno strumento di emancipazione, da un lato la musica, poi se ti va male, e 9 su 10 ti va male, non diventa vale un mostro. Niente, sì. Diventa un mostro, è in un'età in cui tu ti stai formando, può fare dei danni incredibili. Questo. Lo stesso è con lo sport, cioè quando tu fai laboratorio di calcio, i genitori mettono una pressione allucinante ai ragazzini, sembra che devono diventare tutti i nuovi Totti e cercano i procuratori, le cose. Poi non ci riesci, tu hai buttato degli anni, cioè, tu ragazzino hai pure dei sensi di colpa nei confronti dei tuoi genitori, un livello di frustrazione che fa dei danni enormi, e se non ci stanno i compagni dentro queste contraddizioni, cioè tutto a favore del sistema, come diceva Kenny. Cioè, penso che sia centrale il nostro agire, la nostra lotta deve spostarsi, non spostarsi, deve radicarsi quanto più possibile in questi posti, in questi territori, partendo dalle scuole. Anche perché se parliamo del football sono squadre miste, non sono squadre unicamente maschili, e questa cosa insomma è altamente positiva, perché finalmente esatto. Le bambine possono giocare a calcio alla pari e non con la squadra delle bambine che poi a 12 anni smetti perché devi fare un'altra cosa. E quindi... No, io volevo aggiungere una cosa rispetto al discorso dei laboratori fatti nei quartieri con i ragazzini. Una cosa che abbiamo notato è che poi ti dà la carica per riprendere e vedere che effettivamente è un progetto vincente. Noi consideriamo che quartieri come lo Zen sono quartieri di nuova formazione, di gente che ha subito i processi di gentrification dal centro e si è ritrovata lì, isolata, tutta con un background fortemente popolare. In questi contesti qua certe componenti culturali diventano più intense e c'è la dicotomia totale tra il bene e il male, in cui questa legalità, che poi è un'assenza di diritti, viene mal vista chiaramente, per come sappiamo noi, e quindi c'è un'illegalità diffusa in cui la componente mafiosa e l'atteggiamento mafioso all'interno delle relazioni è radicato, e soprattutto trova linfa nel fatto che la legalità è una merda, no? Quindi chi non si ritrova all'interno di questo schema culturale, che è lo schema della sopraffazione mafiosa, di fatto poi diventa lo sfigato, perché non ha un luogo in cui esprimere e coltivare il proprio animo diverso. E allora è bello vedere come questi ragazzini che noi abbiamo intercettato con questo senso di disadattamento, e che poi hanno trovato il modo di dare una voce al loro disagio attraverso il rap, dagli sfigati del quartiere sono diventati dei personaggi che hanno un carisma, no? Cioè, veniamo dallo Zen, che è un pezzo molto carino che avevano fatto dei ragazzini, allora avevano 15 anni, ora alcuni di loro sono già papà. Però vedere questi che erano gli sfigati con i capelli lunghi, sai, visti male dal quartiere, sul palco, perché poi abbiamo fatto tutto un lavoro sulla piazza dello Zen, sulla riqualificazione del territorio, quindi abbiamo fatto questo grande concerto. Vedere loro sul palco e tutti i bambini sotto che si cantavano la canzone contenti e che si ritrovavano in quelle parole, in realtà nella semplicità con cui siamo arrivati a quello, nella semplicità con cui si può assistere a una cosa del genere, si nasconde la profondità di un intervento che ti dà tanto respiro a quello che tu porti tu, no? Allora lì veramente il rap è un mezzo di comunicazione, un mezzo per entrare dentro i quartieri, quindi così come il calcio per altri versi. Però visto la tua domanda era proprio sulla parola, ti dico, noi lo abbiamo visto e abbiamo visto questo trasformarsi, perché poi questo con i vecchi sfigati ha innescato e aperto un varco dentro il quartiere, per cui ormai i laboratori sono tanti, i ragazzini appena lui arriva a scuola, un rap professore, so perché è diventata proprio una cosa importante. Quindi noi stiamo parlando con una Poste che fa musica, che però non ha pensato mai a se stessa come un gruppo che doveva sfondare nel famoso music business. Ma no, ma perché prima è nata l'occupazione e poi è nata... anche perché dovevamo cambiare abbastanza parole nei testi per riuscire a sfondare nel music business. Ogni tanto ce lo diciamo, ma può essere che abbiamo sbagliato tutto. Quando vediamo i ragazzini appena nati da Palermo che già hanno sfondato dappertutto, ci guardiamo e diciamo, ma abbiamo sbagliato tutto. Dovevo buttarmi sul neomelodico, però non so cantare. In un'altra vita magari. Che non è vero, però diciamo così. No, anche perché la cultura, quella neomelodica, diciamo, di più, come si dice, non più popolare, più diffusa, è un'altra cappa culturale che viene messa all'ascolto musicale, certo, della gente esclusa. Purtroppo è cambiata molto anche quella, è rimasto riferimento per quella gente, però non siamo agli anni Ottanta di Nino D'Angelo, purtroppo viene fuori lo schifo anche da lì, un cattivo gusto, peggio che, o quasi tale quale ai rapper, perché i rap oggi l'hanno sdoganato, è diventato mainstream totalmente, ci sono un sacco di ragazzetti, adesso ci vuole, non voglio fare manco i nomi, però c'hanno 9-10 milioni di visualizzazioni, non so quante genuine e quante comprate, ma in niente, dicendo nulla, avendo la figura femminile che è una che è un oggetto. Se da un lato c'era questo filone anche nel reggae, tenuto comunque in disparte da tanti altri esempi, soprattutto nazionali, il rap è diventato sdoganato e fa brutto, perché anche chi lo sente per la prima volta e gli piace, cosa che non succedeva quando ero piccolino, io mi ricordo gli Articolo 31 forse che stavano un pochino più, che passavano in radio, allora adesso c'è chi c'hai, puoi scegliere tra diverse schifezze, ecco. Sì. E a parte insomma l'emozione per stasera e quello che vi aspettate di stasera, la vostra immagine insomma è uscita abbastanza fuori, cos'altro volete aggiungere per continuare a farvi conoscere? Perché alla fine abbiamo parlato pochissimo dei testi e di quello che fate, quindi almeno qualcosa. Io sto facendo un lavoro intanto personale, proprio su me stesso, anche sul potere della parola, diceva Frank Energy ai tempi, e quindi sul come usarle, proprio per quello che dicevamo prima, che non è solo volere arrivare, ma costruirsi sempre meglio con se stesso. E, sto scrivendo molte più storie, cioè sto provando, cioè, c'è un po' di testi messi da parte, che adesso non so se questo discorso che abbiamo aperto, non so se faremo un altro disco, se magari la prossima volta produrremo un pendrive, molto probabile con l'evoluzione dei tempi, o metteremo direttamente i pezzi in download. Però sto cercando proprio di raccontare quante più storie possibili, rendendole più alla portata di tutti e non soltanto, cioè mi sono accorto che è una cosa che prende di più. Ho cominciato questo lavoro con Amarcord, che è il pezzo che più mi rappresenta. Quando ho cominciato a non scrivere, lo dicevo ieri anche a un po' di compagni a Bologna, l'altro ieri, cioè, ho sempre personalmente pensato prima a cosa potessero pensare i compagni o comunque gli altri quando scrivevo, non che lo facessi a comando, attenzione, però cercavo sempre di quasi reprimere delle emozioni totalmente, non uscivo mai al 100%, ultimamente lo sto cominciando a fare e devo dire che mi piace. Cioè riesco a vedermi meglio allo specchio tramite la scrittura. Quindi ti somigli sempre di più. Sì, adesso questa cosa, dicevo, è sempre in work in progress, però sta funzionando di più. E mi riesco a intercalare meglio in tante storie, anche col lavoro che faccio. Da qualche mese lavoro dentro una scuola al Borgo Vecchio, che è un quartiere iperperiferico e molto più degradato secondo me dello Zen, nonostante sia situato al centro storico. Lavoro con dei ragazzini delle comunità o segnalati dai servizi o dal carcere minorile, faccio il professore, cioè li preparo alla terza media, io che ero il peggior alunno di qualsiasi istituto. È stata una grossa fortuna, e sentire quotidianamente determinate storie, i ragazzi di 13-14 anni, le ragazze soprattutto, come si aprono, le cose che ti raccontano, il padre in galera, il fidanzato che esce e poi viene condannato definitivamente, e quanto la scrittura, lo scrivere, nonostante siano sgrammaticati tutti, riesce a incidere sulle loro vite, questo mi forma molto. C'ho un sacco di storie che sto provando a che sono le nostre storie, non è di quel ragazzino a cui, che magari non sa manco cos'è il centro sociale, o magari non si trova dentro situazioni nostre, non verrebbe mai ai nostri concerti. Riesce a creare quel famoso ponte di connessione che è fondamentale. Per certi versi la salvaguardia del territorio lo abbiamo fatto con Dalla Valle all'Isola, per collegare la lotta della TAV contro la TAV a quella contro il MUOS. La stessa cosa avviene nel feed tra i ragazzi che possibilmente non hanno ancora formato, non ce l'ha, o hanno dei riferimenti malsani rispetto a una coscienza politica. Allora devi stare lì a scardinare e a formarti tu, senza avere la presunzione di dare delle soluzioni, ma con una messa in discussione quotidiana e continua. Quindi si potrebbe anche dire che quando uno fa l'operatore o l'operatrice sociale non necessariamente va a salvare o a educare la gente, ma è un incontro, quindi non è proprio vero. Salva se stesso. Quindi non è proprio vero che devi continuare sempre con l'idea della cooperativa, col progetto, cioè puoi anche pensare altre cose. Ecco. No, sarebbe frustrante una cosa del genere. Sì. Sì, anzi forse vivi di più, perché a me, cioè sul mio caso, ho molte cose di ritorno che mi fanno fare proprio una lotta interiore, mi stanno proprio mettendo in discussione su tante cose e mi scopro in maniera più chiara su delle cose che magari erano anche dei preconcetti o delle idee, dei paletti, a volte anche ideologicamente, cioè delle cose che restano tali che quasi non vuoi mettere mai in discussione perché sembra che ti danneggi la tua identità, ma non è detto, cioè la tua identità te la formi ogni giorno, non è che a un certo punto finisce, sei quello tutta la vita, basta. No, e poi se vuoi che la tua identità sia davvero l'identità di un militante che è radicato nei territori, devi confrontarti con i territori e capire anzitutto cosa esprimono, per capire come incidere. Diventa un'identità collettiva. Cioè, mettere in condivisione questo diventa la famosa frase del nuovo mondo è possibile, del mondo diverso, del mondo nuotare migliore. Come pesci in mezzo. Benissimo, quindi gocce di saggezza, bella musica, io non so più che dire, però continuiamo. Vabbè, continuate così che... Invitiamo tutte e tutti al concerto di stasera. Infatti concludiamo così, diciamo, invitando un po' a tutte e tutti all'ascolto a questa serata al Forte, appunto con Gente Strana Posse e Kenny Arcana. E niente, noi vi ringraziamo tanto, chiaramente i microfoni della radio sono, come dire, sempre a disposizione, anche se ci volete venire a trovare qualche volta. Con piacere, in studio sempre. A raccontare qualcosa, e ve la butto lì, mi fa anche piacere dirlo, perché così lo ricordo anche a chi è all'ascolto: se domani non avete niente da fare alle 15 magari ripartite, comunque ci sarà un presidio sonoro sotto il carcere minorile di Casal del Marmo. L'abbiamo parlato un pochino per radio durante questa settimana, da che mi ricordi io, veramente una delle poche volte che mentre sotto il carcere, diciamo, di Re Bibbia, di Regina Cele, ogni tanto ci andiamo a cercare, no, di far sentire la nostra voce a chi sta dentro, sotto al carcere minorile è forse una delle poche volte che ci andiamo. Un'inserita secondo me molto molto importante e molto bella, fra l'altro a base di rap, guarda caso, perché ci saranno, insomma, un sacco di compagni e compagne, ragazzi e ragazzini più o meno giovani, che andranno a cantare davanti appunto al carcere minorile di Casal del Marmo. Si farà probabilmente anche un CD della giornata, quindi insomma così. Non so se saremo già ripartiti, ma comunque iniziative del genere vanno assolutamente ripetute e sostenute. È centrale, lo dicevo anche poc'anzi, cioè, io lavoro in una scuola con di fronte il carcere minorile, con tanti ragazzi fuoriusciti dal carcere minorile, e ti rendi conto come poi la vita possa veramente cambiare se riesci a innescare quella scintilla, che c'è qualcosa di diverso dall'ostentare la prevaricazione, l'essere mafioso. Sembra che sono destinati o che si sono rassegnati, invece lì la musica, lo sport, gli esempi comunque diversi, i compagni sostanzialmente devono stare lì. E certo, e con questo come dire, manco augurio, con questo, come, non so come chiamarlo, impegno, grazie, meno male che ci siete, chiudiamo questa parentesi dal Forte Prenestino. Io insomma ringrazio tutti voi, grazie a voi, che grazie a voi. E anche a chi è stato, insomma, dall'altra parte in regia, un abbraccione, ci sentiamo presto, e insomma restare all'ascolto di Onda Rossa. Penso che fra poco riprenderemo, insomma, la normale programmazione. Ancora una buona serata a tutte dal Forte, a tutti.